Vendo tutto di Matteo Caccia. Ci sono cose che vendi e di cui ti dimentichi appena le hai date via. Ce ne sono altre invece che, anche se non le usi più o non le vedi lì in casa tutti i giorni, ti rimangono attaccate addosso come un cattivo profumo. Queste sono le cose che voglio vendere più in fretta. Ecco perché non mi fermo e continuo. Vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme. Capita, succede a tutti ed è toccato anche a me, lo so. Io però questa volta ho deciso. Mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita. Io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo un guantone da baseball. Sono le 16:08, splende un grande sole sopra la Serra del Sole 24 ore, sono le 16:08, quasi 09, sono Matteo Caccia, questo programma si chiama Vendo Tutto, io ringrazio quelli che già iniziano a scrivere prima che il programma cominci al 349-238-6666, avrei bisogno però di fare 4 chiacchiere con Anna da Treviso. Anna da Treviso mi scrive quasi tutti i giorni e mi manda sempre un bel augurio prima di iniziare. Vai a lavorare in miniera. Anna, che cosa c'è? Qual è il problema? Scusa Pietro, abbassami un secondo la base. Anna, so che sei lì. So che non puoi fare a meno di ascoltarmi, è più forte di te. Però guarda, se hai voglia di fare 4 chiacchiere, ne parliamo, perché è lunedì per tutti, ed è già difficile per tutti. Questa è Radio 24, cominciamo con la vendita di oggi. Oggi vendo un guantone da baseball. Questo guantone lo vendo a fatica, lo ammetto, perché non è solo un guantone da baseball, non me ne frega niente del fatto che sia un guantone, non ho mai giocato a baseball. Questo guantone però mi ricorda una persona molto importante, che era un parente. Era uno zio, e vi racconterò a breve chi era esattamente. Era lo zio Nello. Lo zio Nello era lo zio d'America. Prima Bonini diceva: tutti hanno uno zio d'America. Non è proprio vero, però tutti quanti abbiamo un parente che ci sta particolarmente a cuore, no? È il parente strano. Avete presente quello che alle cene o ai pranzi di Natale tutti lo aspettano un po' intimoriti? Oddio, adesso arriva e dice qualcosa che non va, oppure racconta qualcosa di strano, di fuorviante per i più piccoli. Insomma, tutti abbiamo uno zio particolare o un parente particolare. 800 24 00 24 per raccontarlo qui in diretta. Io vi racconterò dello zio Nello e quindi mi aspetto anche i vostri racconti degli zii, dei nonni, dei cugini, dei fratelli. Sai, tipo, che so io, lo zio, anche solo lo zio che fa il regista. C'è qualcuno che ha lo zio che fa il regista? Poi magari fa altro nella vita, però ah sì, lui fa il regista. Il personaggio migliore che è venuto fuori prima però è nonna Lucia. Nonna Lucia non è la mia nonna, nonna Lucia è proprio quel parente particolare lì. È la nonna di Laura Faggine. Io non so, Laura ci ascolta la nonna Lucia? Non credo, perché dorme. A quest'ora dorme perché la nonna Lucia sta in piedi tutta la notte a parlare al CB. È una radioamatrice, nonna Lucia. Laura dice che hanno un'antenna di 40 metri sulla casa dove la nonna Lucia abita in Abruzzo. Ma la cosa divertente è che quando anche con lei al telefono parla, dice: senti, adesso ti saluto che vado in 144. Che nel linguaggio di chi parla al CB credo voglia dire vado a dormire. Esatto. Un saluto a nonna Lucia e un saluto a tutti i parenti strani. 800 24 00 24 per raccontarli, oppure 349 238 6666. Tutti tranne Anna da Treviso. Anna, ho capito come la pensi, per oggi a posto così. Gli altri invece 349 238 6666. I parenti strani qui in diretta a Radio 24. Ma in diretta a Radio 24 ora la storia del mio guantone da baseball. Il guantone da baseball. Guantone da mano sinistra, marca Viralfa, numero di serie AS220. Materiale pelle di vacchetta, cuciture in nylon, taglia media. Perfetto per chi vuole imparare uno sport esotico o per chi voglia vantarsi di averlo fatto. Valore commerciale 30 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800 24 00 24. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Io ho sempre avuto il sogno americano. Un sogno fomentato e nutrito da Happy Days, da Starsky e Hutch. Un sogno però che è nato grazie allo zio Nello. Lo zio Nello in realtà non era proprio uno zio, nel senso che non è il fratello di nessuno dei miei genitori. Lo zio Nello era il cugino di mio nonno. Lo chiamavamo zio perché era emigrato negli Stati Uniti e quindi in famiglia per tutti lui era lo zio d'America. Per i primi 10 anni della mia vita lo zio Nello non l'ho mai visto. Era il protagonista di decine di racconti di mia madre o di mia nonna. Mia nonna l'aveva visto partire dal paese per andare dall'altra parte del mondo, quando l'America era veramente l'altra parte del mondo. Quando in Italia non c'erano i McDonald's e non erano 9 ore d'aereo e ci sentiamo qua da Terry. Lo zio Nello, dopo qualche problema con il maresciallo dei carabinieri di Novara, pare, a 20 anni aveva deciso di andarsene. Mia nonna ne ha sempre parlato come di un ribelle, uno che non aveva voglia di andare in fabbrica, nei campi. e che nessuno ci credeva quando lui disse «Parto, vado in America». Nemmeno mio nonno ci credeva, perché alla fine non si era in Sicilia o in Veneto, dove si partiva per davvero. Si era nel basso novarese, dove alla fine due galline e qualche manciata di riso si tiravano sempre fuori, anche durante la guerra. C'era chi diceva che lo zionello avesse fatto i soldi, chi diceva che fosse stato in galera per anni, chi ancora sosteneva che si fosse sposato con un'attrice del cinema. La cosa strana è che non se ne parlava mai apertamente, però ogni tanto, ai pranzi di famiglia, qualche accenno allo zionello veniva sempre fuori. Fino a che, nell'estate del 1985, mio nonno morì. Io avevo 10 anni ed era il primo funerale a cui partecipavo. L'unica cosa che avevo capito era che il nonno non c'era più. L'avevo capito, però non me l'ero ancora ammesso, quindi facevo finta che non fosse successo niente. Mi aggiravo per la casa guardando tutte queste persone del paese che conoscevo molto bene e che non avevo mai visto così serie. Amici di mio padre che al bar facevano sempre un gran casino se ne stavano in un angolo, con gli occhiali da sole, gli abiti scuri e le facce da film triste. E poi, anche nel clima di lutto generale, ha cominciato a serpeggiare una strana eccitazione, come di qualcosa che sta per succedere. Qualcosa che era quasi più importante della scomparsa di una persona importante. Ed era il ritorno di una persona importante. Era arrivato lo zionello. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know he'll be changing your mind. When you've seen him, he's a gun boy. When you've seen him, he's a gun. Mia nonna, quando l'ha visto entrare in casa, ha avuto un mancamento. E non perché non se l'aspettava, ma perché lo zionello era la copia esatta di mio nonno. Sarebbero potuti essere fratelli invece che cugini. Lo stesso naso adunco, la stessa stempiatura, gli occhi sorridenti, gli zigomi pronunciati. L'unica differenza era che mio nonno portava dei grandi baffi grigi, mentre lo zionello era completamente rasato. Quando è entrato in casa è andato dritto da mia nonna. L'ha abbracciata stretta stretta per almeno 2 ore. O meglio, a me che avevo 10 anni sembrarono 2 ore, però comunque l'abbracciò per lungo tempo. La gente lo guardava come fosse un divo del cinema. Indossava un cappotto con il collo di pelliccia e un cappello scuro. Accompagnò mia nonna sotto braccio per tutto il giorno, passando dalla chiesa al cimitero senza mai mollarla. Sembrava che senza di lui sotto braccio lei non ce l'avrebbe fatta a camminare da sola. Era arrivato da un'ora ed era come se fosse stato sempre lì. Il modo in cui aveva salutato, in cui stava in piedi in chiesa, come aveva congedato tutti alla fine della cerimonia. Per poche persone in vita mia ho provato un'ammirazione immediata, senza nemmeno averci parlato. Ecco, lo zionello fu una di quelle. Era stato via per 45 anni e in pochi minuti era diventato indispensabile. Si fermò poi da noi a casa per 2 giorni e tutti erano come contagiati dalla sua presenza, anche se non parlava bene l'italiano e parlava solo in dialetto, anche se i suoi capelli avevano un taglio diverso dai nostri, se i suoi vestiti avevano un odore che non conoscevamo. Il giorno prima di partire poi ci fu una grande cena con parenti che non sapevo nemmeno di avere, che arrivarono da chissà dove per vedere lo zionello, lo zio d'America. Lui parlava e sorrideva, sembrava dispensare consigli e parole buone a tutti. Invitava nel New Jersey a vedere la sua casa, che era ad 1 ora di macchina da New York. E poi, come un babbo Natale senza le renne, distribuì regali. Profumi e collane per le donne, orologi e sigari per gli uomini, e per noi bambini oggetti che sembravano usciti da un telefilm. A mia sorella un lettore CD portatile, che non poteva usare fino a che i CD non apparvero anche in Italia. Per mio cugino un pallone con 2 punte, da football americano. E per me un guantone da baseball. Per la mia mano era troppo largo, però giravo per la casa con questa specie di conchiglia di cuoio infilata nella mano sinistra, giocando con una pallina da tennis che quella da baseball non ce l'avevo e non la volevo comprare. La cosa strana è che nonostante il guantone, io non ho mai avuto la curiosità di imparare a giocare a baseball. Questo guantone è sempre rimasto in bella vista su una mensola di casa mia, a riempirsi di polvere. Perché non era uno strumento sportivo, no. Per me era la testimonianza che l'America esisteva. Eppure, oggi, alle 16:17, nonostante Happy Days, i miei 10 anni e lo zionello, questo guantone è in vendita. Il suo valore è di 30 euro, la base d'asta qui sono 99 centesimi. Per i vostri zii o parenti strani e particolari, 80024-0024. Ale da Milano mi scrive: sono io lo zio particolare per i miei nipoti. E allora Ale chiama il 800240024. Poi ancora mi scrive Buddy: io un parente l'ho adottato via web, si chiama Nedda, per me e per molti è nonna Nedda, ha 85 anni e fa la blogger. Questa è un po' come nonna Lucia. E poi ancora Enzo da Varese mi scrive: Anna è la tua ex in incognito, sei sotto controllo. Beh, sei sotto controllo, siamo qua tutti i giorni alle 16. 800240024 per i vostri parenti da particolari. Andiamo subito in provincia di Roma da Nicola. Pronto? Ciao, sono Nicola. Ciao Nicola, io sono Matteo. Abbiamo fatto... ci siamo salutati, quindi possiamo andare al dunque, Nicola, che ne dici? Sì. No, io avevo uno zio Piero, che aveva delle capacità particolari, perché faceva di mestiere l'ingegnere civile, si era laureato in ingegneria, però poi faceva parte anche di un quartetto d'archi, perché si era diplomato al Conservatorio di Milano e poi ha anche iniziato a suonare proprio professionalmente. Ma e quindi però, suonava in casa per le famiglie, per la famiglia, faceva quei concertini? No, faceva concerti proprio in pubblico. Proprio. No, capito, quello lo immaginavo, ma poi quando c'erano le cene di famiglia lui era tipo quello strano. No, ma infatti la cosa che me lo fa sentire vicino è proprio il fatto che avesse un'umanità particolare, perché per esempio io quando ho portato in casa la mia futura moglie, che era irlandese, lui l'ha accolta proprio... Senti Nicola, come si chiamava, come si chiama, se ancora vivo? Come si chiamava lo zio? Piero. Lo zio Piero, perfetto, lo metto lì vicino allo zionello. Grazie mille Nicola, buona giornata. Ciao, arrivederci. Ciao, andiamo a Lodi da Antonio, pronto? Ciao Matteo. Ciao Antonio. Buongiorno. Prima di tutto complimenti per la trasmissione. Ti ringrazio. Sei in macchina, Antonio? Sì, però ho l'auricolare. Bravo. Dimmi qual era quel parente o quello zio, cos'era? Allora, era lo zio che noi chiamavamo tutti Don Gerardo, era un prete. Prete che è diventato prete in Italia, ma poi è stato mandato in Svizzera. E in Svizzera hanno un sistema per retribuire i preti un po' particolare, nel senso che gli emolumenti sono molto alti, è un modello manager qui da noi. Come tutto il resto in Svizzera, perché faceva il prete frontaliere? No, lui era proprio nell'interno, aveva tre parrocchie. La cosa curiosa è che tutta la mia famiglia, che è molto grande, del sud, non lo vedeva di buon occhio. Perché? Scusami, era un prete. Il prete è il meglio che puoi avere in famiglia, direi. Infatti, con un cabinato a 13 metri, cioè, macchine sempre Mercedes. Andava in barca a vela? Sì. Ma allora era una copertura quella del prete. Ma tante volte ci ho pensato anch'io che fosse una copertura. Comunque erano tutti terrorizzati quando si presentava alle occasioni. Non si sapeva mai se c'era, perché non si sapeva mai se c'aveva da fare. Lo invitava o non lo invitava, ma quando arrivava erano tutti terrorizzati, perché dicevano: chissà cosa dirà oggi, perché noi ragazzi eravamo affascinati da lui. Immagino. Antonio, scusami un attimo, al volo, poi ti saluto. Tu sei in macchina, che lavoro fai? Fai il consulente? Faccio l'agente per fare fabbricati. Ok, quindi sei spesso in giro. Antonio, grazie mille, buona giornata. A te. Ciao. A Milano da Alessandro, pronto? Buongiorno. Buon pomeriggio. Giusto. Come va Ale, tutto bene? Ciao Matteo, tutto bene? Sì, io tutto bene. Sì, a me benissimo. Benissimo, dimmi... Sì, io sono lo zio strano. Oh, sei tu lo zio strano. Sono zio strano per i miei nipoti, perché capito poche volte a casa. Perché? Nel senso che poche solo per le giuste, per diciamo Natale, Pasqua, quando si riuniscono un po' quindi compaio io. Ma perché sei lo zio strano? Cosa hai sono di strano? Sono lo zio strano perché essendomi separato praticamente vado a trovare mio figlio, quindi poi trovo tutti i miei nipoti che mi accolgono e mi trovano poche volte, perché faccio cose strane rispetto agli altri, lavoro in discoteca piuttosto che giocare a rugby o cosa fai in discoteca, Alessandro, scusami? Facevo la sicurezza una volta, quindi nipoti interessatissimi. Quindi sei anche grosso? Sì, 1,83 per un quintale 10. Ma le hai mai date a qualcuno che faceva... Sai quelli che rompono sempre le balle in discoteca? Gliele hai mai date sonore? No, perché non lo puoi dire. Una discoteca abbastanza pettinata e quindi cercavamo di fare le cose senza disturbare nessuno. Ok. Ale, viva gli zii strani, grazie mille, buona giornata. Grazie a te, ciao. Ciao, l'ultima telefonata di oggi, andiamo in provincia di Lucca da Federica. Pronto? Salve, sono Federica. Io chiamo per il mio zio Alfredo, che in effetti non era un zio, ma era il fratello di mia nonna Florinda, sì, che aveva, era immigrato a San Paolo in Brasile, e quasi ogni anno, ogni due anni, veniva a Lucca esclusivamente, cioè, per noi parenti, ma soprattutto per andare alle terme di Montecatini. L'ultima volta che è venuto aveva 101 anni, però veniva in nave, naturalmente, perché in aereo allora non c'erano, gli anni 40-50. Ma quindi non c'è più, Federica, questo veniva, zio non c'è più? Era vestito con una giacca sempre bianchissima, pantaloni blu, e teneva in mano sempre un bastone nero per camminare. Ma che era l'uomo del monte, è descritto così, sembra, Federica. Mi portò l'ultima volta, io avevo 6 anni, una bambola che in brasiliano si chiamava Puppattola, la chiamava Puppattola, non so come mai. Sì. Questa bambola però l'ho venduta. No! Sì, ho cominciato te lo dico a vendere. Io no. Ho cominciato a vendere come fai te. Ho venduto tutte le mie bambole, sto vendendo degli oggetti, cerco con fatica di liberarmi. Brava, Federica, scusami, non si dovrebbe mai chiedere, però quanti anni hai? 65. E perché hai deciso di vendere? Perché sono molto legata, sento che sono molto legata al passato, troppo legata, e quindi intento anche con questi gesti, insomma, sì, con queste azioni, di libellarmene. E quando hai cominciato? Quando hai cominciato a farlo? Ho cominciato da 2 o 3 anni a venderli. Ho venduto tutte le mie bambole perché mi ricordavano l'infanzia e mi facevano piangere molto. Bene. E non so perché, tutte le bambole. Questa però sta funzionando, era... Federica, sta funzionando oppure no? Sei contenta? No, sono contentissima di averle vendute, però sono ancora, di aver cominciato a vendere anche oggetti, mobili, però ancora sono molto legata purtroppo al passato. Vabbè, comunque però... voglio ricordare questo mio zio Alfredo che al 101 anni l'ultima volta è venuto e camminava da solo. Federica, allora guarda, lo zio Alfredo lo metto vicino allo zio Nello e ti ringrazio molto. Buona giornata. Grazie. Non posso non ascoltare la tua trasmissione. Guarda, e io non posso esserne che felice. Grazie mille, ciao Federica. Grazie. Sono le 16.27, io ringrazio tutti quelli che sono intervenuti. Ringrazio anche Laura Faggin, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi e Pietro Lacorte. Il guantone, come al solito, è sul sito di Radio 24. Domani invece tocca al mio splendido completo da uomo: pantaloni, giacca e gilet. Voi non tenetevi cose che si impolverano sugli scaffali, invece, come ho fatto io, che alla fine quegli oggetti non rappresentano altri che degli oggetti. Love, love, love.